e sulle note di Ommai diamo il benvenuto e buon pomeriggio ad Alberto. Ciao Alberto. Ciao, ciao a tutti, grazie per averci invitato. Grazie a voi per aver risposto e accolto questo invito. Andiamo subito dentro l'intervista. Allora, com'è nato il progetto e perché avete scelto questo nome? Allora, il progetto è nato da un incontro, diciamo, tra me e tra Stefano Cosi, che è batterista e produttore di Padova. E il tutto, diciamo, è nato da semplicemente da una session di improvvisazione che abbiamo fatto a Padova, nella nostra città. E ci siamo trovati e abbiamo suonato senza dirci tante cose. Semplicemente, diciamo, l'obiettivo era fare un po' di groove con semplicemente in due, batteria e tastiere. Ecco, io mi occupo dei sintetizzatori, Fender Rhodes e bassi synth, quindi abbiamo cercato di essere autonomi, ecco, in due. Certo, e come mai vi chiamate Dope? Ma è una parola di cui ci piaceva il suono principalmente e dopo abbiamo scoperto che questa parola ha un'accezione, diciamo, nello slang statunitense. È quasi un sinonimo di cool, quindi vuol dire cool, una cosa bella, no? Una cosa coinvolgente. Lo sai anche che è il nome di una band? Di una vecchia band tipo metal, black metal, esatto. Una cosa del genere. Sì. Lo ben so, certo. Una però... band black metal. Quando cominceremo a fare black metal? Ritornerete qua. Esatto, c'è questa band black metal che si chiama come voi, ma le vostre sonorità sono completamente diverse. Qual è il vostro genere musicale e che suoni ricercate? Allora, i nostri riferimenti vanno nella musica, diciamo, nella black music, quindi insomma, ad esempio a me piace molto l'hip hop anni 90, c'è cioè un po' di acid jazz, di neo soul, e quindi l'immaginario è questo, insomma, ecco, suoni da sintetizzatori anni 80, un po' così, un po' un miscuglio tra il sound più acido, elettrico e un po' il soul classico, ecco. Quindi, principalmente. Adesso che sappiamo quali sonorità sono principali nel vostro gruppo, avete in programma qualche idea, qualche progetto? C'è qualcosa nuovo che bolle in pentola? Allora, in pentola bolle una cosa per noi molto interessante, perché è una release esclusiva con un'etichetta discografica di Firenze, di cui non svegliamo ancora troppi, non spoileriamo, diciamo, però insomma si tratta di essere distribuiti anche all'estero, quindi insomma siamo molto carichi per questa cosa, ecco. E il tutto si verificherà entro inizio del 2019. Certo, e tra l'altro il vostro genere secondo me è molto poco usuale in Italia, si sente magari di più negli Stati Uniti, in Inghilterra, però in Italia c'è poca produzione del genere. E senti, la vostra data più prossima, il vostro prossimo concerto dove e quando sarà? Allora, il nostro prossimo concerto si terrà a Bologna questo sabato, giusto? Sì, sabato... Esatto, sabato al Binario 69 a Bologna. D'accordo, allora i Dope al Binario 69 questo sabato. Ringraziamo Alberto Lincetto per essere stato ai microfoni con noi. Mi raccomando, adesso noi vi lasciamo ad un altro brano e ringraziamo ancora Alberto. Ciao Alberto, grazie. Molte grazie, ciao a tutti, grazie mille.